Capitolo 16. La sostituzione. La domenica seguente fu una delle giornate più tristi di aprile, una giornata di nuvole spesse e violenti rovesci di pioggia. Nessuno dei Murray era disposto a ritornare in chiesa nel pomeriggio, fuorché Rosalia. Come al solito aveva desiderio di andarci, per cui ordinò la carrozza e io andai con lei. Non mi era certo di sacrificio, perché in chiesa potevo guardare, senza timore di disprezzo e di critica, una persona e un volto che mi erano più graditi delle più belle creazioni divine. Potevo ascoltare indisturbata una voce che era alle mie orecchie più attraente della musica più dolce. Mi pareva di trovarmi in comunione con un'anima a cui mi sentivo profondamente interessata, di essere imbevuta dei pensieri più puri e delle aspirazioni più sante, senza nessun ostacolo a questa felicità, se non dei rimproveri segreti della coscienza che mi mormoravano troppo spesso che stavo ingannando me stessa e prendendo alla leggera Dio, offrendogli un cuore più interessato alla creatura che al creatore. A volte questi pensieri mi tormentavano non poco, ma altre volte li mettevo a tacere, pensando non amo l'uomo, ma la sua bontà. Tutte le volte che le cose sono pure, belle, giuste e buone, pensa a queste cose. Quasi subito, dopo la fine del servizio, la signorina Murray lasciò la chiesa. Dovemmo rimanere sotto il portico perché pioveva e la carrozza non era ancora giunta. Mi chiedevo la ragione della sua fretta di uscire, perché non c'erano né il giovane Meltham né lo squire Green. Ma subito scoprì che era per assicurarsi un incontro con il signor Weston, non appena fosse uscito. Con un saluto a tutte e due egli sarebbe però passato oltre, ma la signorina lo trattenne, prima con delle osservazioni sul cattivo tempo e poi per chiedergli se sarebbe stato tanto gentile da venire in qualche momento, il giorno dopo, a far visita alla nipotina della vecchia che teneva la portineria, perché la bambina aveva la febbre e desiderava vederlo. Egli promise che sarebbe venuto. «E a che ora sarà più probabile che venga, signor Weston? Alla vecchia piacerebbe sapere quando deve aspettarla. Lei sa che quelle persone si preoccupano più di quel che si crede di avere la casa in ordine quando va a trovarle della gente per bene». Era quello un esempio straordinario di riflessione per l'irriflessiva signorina Murray. Il signor Weston fissò un'ora della mattina in cui avrebbe cercato di essere là. Intanto la carrozza era arrivata e il servitore si mise ad aspettare con l'ombrello aperto per accompagnare la signorina Murray attraverso il cimitero. Io stavo per seguirla, ma anche il signor Weston aveva un ombrello e mi offrì di ripararmi sotto di esso poiché pioveva forte. «No, grazie, non ho paura della pioggia», dissi. «Mi veniva sempre a mancare il buon senso quando ero presa alla sprovvista». «Ma immagino che non le faccia piacere. L'ombrello ogni modo non le farà male», rispose con un sorriso che dimostrava che non si era offeso, come avrebbe fatto un uomo meno equilibrato e meno penetrante. Non potei negare la verità delle sue parole e così andai con lui fino alla carrozza e mi offrì anche la mano per salire in vettura, un tratto di cortesia superflua ma che accettai per timore di offenderlo. E mi diede uno sguardo, fece un lieve sorriso alla nostra partenza. Fu un solo istante, ma vi lessi dentro, o credetti di leggervi, un significato che fomentò in cuor mio la più viva speranza che avessi fino ad allora provata. «Avrei rimandato il servitore per lei, signorina Gray, se avesse aspettato un momento. Non c'era bisogno che prendesse l'ombrello del signor Weston», osservò Rosalia con un'espressione di contrarietà sul suo bel volto. «Beh, sarei venuta senza ombrello, ma il signor Weston mi ha offerto di ripararmi sotto il suo e io non potevo continuare a rifiutarlo senza il pericolo di offenderlo», risposi con un calmo sorriso, perché la mia felicità interiore trasformava in divertimento quel che in un altro momento mi avrebbe ferita. La carrozza ora era in moto. La signorina Murray si sporse in avanti e guardò fuori dal finestrino mentre passavamo davanti al signor Weston. Egli camminava lungo il viale verso casa sua e non si voltò. «Stupido asino!» gridò ella, rigettandosi di nuovo sul sedile. «Non sai che cosa hai perso non guardando da questa parte?» «Che cosa ha perso?» «Un mio inchino che l'avrebbe sollevato al settimo cielo». Non risposi. Vidi che era di cattivo umore e trassi un piacere segreto dal fatto non che fosse afflitta, ma che credeva di avere ragione di esserlo. E questo mi faceva pensare che le mie speranze non erano solo frutto dei miei sogni e della mia fantasia. «Ho intenzione di prendere il signor Weston al posto del signor Hatfield», disse la mia compagna dopo una breve pausa, riacquistando un po' della sua gaiezza abituale. «Il ballo ad Ashby Park avrà luogo martedì, lo so, e mamma crede che Sir Thomas molto probabilmente mi farà la sua proposta in quell'occasione». Simili cose sono spesso combinate nelle feste da ballo, quando gli uomini sono più facilmente affascinabili e le donne più affascinanti. Ma se dovrò sposarmi tanto presto, voglio trarre il miglior partito dal presente. Ho deciso che Hatfield non sarà l'unico uomo che mi porrà il suo cuore ai piedi e mi supplicherà invano di accettare un dono non degno di me. «Se lei ha intenzione di fare del signor Weston una delle sue vittime», dissi con affettata indifferenza, «dovrà spingersi tanto avanti sulle concessioni che le sarà difficile tirarsi indietro quando egli le chiederà di mettere in atto le speranze che ha suscitato». «Non credo che mi chiederà di sposarlo, né lo desidererei, sarebbe un po' troppa presunzione, ma voglio fargli sentire il mio potere. In ogni modo l'ha già sentito. Bisogna però che lo riconosca anche lui, e qualunque speranza ridicola possa provare, deve tenersela per sé e divertirmi per un po' coi suoi affetti». «Oh, ma quale spirito gentile le sussurra queste parole all'orecchio», dissi fra me. Ero troppo indignata per arrischiare una risposta alle sue osservazioni, e per quel giorno non si parlò più del signor Weston. Ma la mattina seguente, subito dopo la colazione, la signorina Rosalia entrò nella sala studio dove sua sorella stava studiando, o piuttosto era occupata con le sue lezioni, perché non si poteva chiamare quello studiare, e disse: «Matilde, vorrei che tu venissi a fare una passeggiata con me verso le 11:00. «Oh, non posso, Rosalia. Devo dare disposizioni per le mie briglie nuove e la stoffa della mia sella e parlare all'acchiappatopi dei suoi cani. Dillo alla signorina Gray di venire con te». «No, voglio te», disse Rosalia, e chiamata sua sorella alla finestra le diede una spiegazione all'orecchio, dopo la quale Matilde acconsentì ad andare. Ricordavo che il signor Weston aveva detto che alle 11:00 sarebbe andato all'alloggio del portinaio, per cui compresi tutto l'intrigo. Di conseguenza, a pranzo dovetti stare a sentire un lungo resoconto, ossia che il signor Weston le aveva raggiunte mentre camminavano per la strada e che avevano camminato e chiacchierato con lui per un pezzo e che lo trovavano in verità un compagno molto simpatico e che doveva essere, certamente era, incantato di loro e della loro straordinaria condiscendenza, eccetera, eccetera, eccetera. Capitolo 17. Confessioni. Poiché sono in vena di confessioni, posso ben rivelare che in quel tempo mettevo tanta cura come non mai nel vestirmi. Non è gran cosa, perché fino allora ero stata un po' negligente da quel lato, ma adesso non mi capitava di rado di fermarmi davanti allo specchio per 2 minuti in contemplazione della mia immagine, benché non avessi mai tratto da quello studio qualche consolazione. Non potevo rintracciare alcuna bellezza in quei lineamenti marcati, in quelle guance pallide incavate, in quei comuni capelli bruni. C'era forse dell'intelligenza nella fronte e nell'espressione, negli occhi grigio scuri, ma a cosa serviva? Una larga fronte greca e dei grandi occhi neri privi di sentimento sarebbero stati giudicati assai preferibili. È follia desiderare la bellezza. Le persone sagge non la desiderano per sé, né la trovano necessaria negli altri, purché la mente sia educata e il cuore buono. Non si deve dar peso all'esteriorità. Così ci dicevano i maestri della nostra infanzia, e così diciamo noi oggi ai bambini. Senza dubbio tutto questo è giudizioso e bello, ma queste affermazioni sono giustificate da un'esperienza reale. Siamo spinte per natura ad amare ciò che ci procura piacere, e che cosa c'è di più gradito di un bel volto quando non conosciamo i difetti del possessore? Una bimbetta ama un uccello perché? Perché vive e sente? Perché è debole e impotente? Un rospo vive e sente anch'esso ed è allo stesso modo debole e impotente, ma anche se non fa del male a un rospo, non può amarlo come ama l'uccello con le sue forme graziose, le piume soffici e gli occhi lucenti e vivaci. Se una donna è bella e amabile, è lodata dalla maggior parte degli uomini, specialmente per la prima di queste due qualità. Se d'altro canto è urtante nella persona e nel carattere, la colpa che le si rinfaccia più comunemente la sua bruttezza, perché costituisce quello che più colpisce i comuni osservatori, mentre se è comune e buona, purché abbia delle maniere riservate e conduca una vita ritirata, nessuno mai conosce la sua bontà, fuorché i suoi intimi conoscenti. Altri, al contrario, saranno disposti a formarsi un'opinione sfavorevole del suo spirito e del suo carattere, se non altro per scusare la loro ripugnanza istintiva per una persona così poco favorita dalla natura. E viceversa, con una, le cui forme angeliche nascondono un cuore vizioso o coprono con un fascino falso e ingannevole difetti e debolezze che non sarebbero tollerate in un'altra. Quelle che posseggono la bellezza se ne mostrino grate alla provvidenza e ne facciano buon uso come di una qualsiasi altra qualità. Quelle che non la posseggano facciano il meglio che possono senza di essa. Certamente, benché soggetta a essere sopravvalutata, la bellezza è un dono di Dio e non deve essere disprezzata. Molte proveranno questo sentimento. Sentono che potrebbero amare, che sono degne di essere amate e che per la mancanza della bellezza sono private di quella felicità per cui si sentono create. Allo stesso modo che se un'umile lucciola disprezzasse il potere di spandere la luce, senza del quale il vagante maschio le passerebbe e ripasserebbe vicino mille volte senza restarlesi accanto. Essa udrebbe il suo alato innamorato ronzarle intorno, esso cercandola vanamente, essa bramando di essere trovata, ma senza alcuna possibilità di fargli conoscere la sua presenza, senza voce per chiamarlo, senza ali per seguire il suo volo. Quello cercherà un'altra compagna. Essa vivrà e morirà sola. Queste erano alcune delle mie riflessioni in quel tempo. Potrei continuare a dilungarmi, scavare più profondo e rivelare altri miei pensieri, proporre domande al lettore, metterlo in imbarazzo, dedurne argomenti che scuoterebbero i suoi pregiudizi o provocherebbero la sua ilarità, perché non mi comprenderebbe, ma non dirò di più. Così, ora ritorniamo alla signorina Murray. Ella il martedì accompagnò la mamma al ballo. Naturalmente vestiva splendidamente e felice delle sue prospettive e delle sue attrattive. Siccome Ashby Park era quasi 10 miglia da Horton Lodge, dovevano uscire abbastanza presto e io avevo fatto il proposito di passare la sera con Nancy Brown, che non vedevo da molto tempo. Ma la mia cara allieva pensò bene che non dovessi trascorrerla in altro luogo che nella sala da studio e mi diede un pezzo di musica da copiare che mi tenne occupata senza interruzioni fino all'ora di andare a letto. Verso le 11 della mattina seguente, non appena lasciò la sua camera, venne a parteciparmi le sue novità. Sir Thomas si era realmente dichiarato durante il ballo, avvenimento che gettava grande credito alla sagacia di sua madre, se non alla sua abilità nell'intrigo. Sono convinta che ella aveva prima preparato i suoi piani e poi predetto il successo. Naturalmente l'offerta era stata accettata e il prescelto fidanzato doveva venire quel giorno a sistemare le cose col signor Murray. Rosalia si rallegrava tutta al pensiero di diventare padrona di Ashby Park ed era elettrizzata al pensiero della cerimonia nuziale, dello splendore dell'éclat che l'avrebbe contornata, della luna di miele da passare all'estero e dei futuri divertimenti che l'aspettavano a Londra e altrove. Per il momento pareva abbastanza contenta anche di Sir Thomas, perché l'aveva visto recentemente, aveva ballato con lui e aveva ricevuto le sue adulazioni, ma in fondo sembrava spaventata dall'idea di sposarlo così presto. Avrebbe voluto che la cerimonia fosse almeno rimandata di qualche mese e lo desideravo anch'io. Mi pareva una cosa orrenda affrettare delle nozze funeste e non dare alla poverina il tempo di riflettere sul passo irrevocabile che doveva fare. Non arrischiavo nessun consiglio, naturalmente, alla sollecitudine vigilante e ansiosa della madre, ma ero meravigliata e inorridita dall'insensibilità della signora Murray, dalla sua mancanza di preoccupazione per il benessere della figlia. E con i miei consigli e le mie esortazioni vanamente tentai di rimediare al male. La signorina Murray si limitava a ridere delle mie parole e scoprì ben presto che la sua avversione a un matrimonio immediato nasceva principalmente dal desiderio di far tutte le vittime che poteva fra i giovanotti di sua conoscenza prima di essere impossibilitata ad altri misfatti del genere. Appunto per questa ragione, prima di confidarmi il segreto del suo fidanzamento, mi strappò la promessa che non avrei parlato con nessuno, e quando capii questo e la vidi gettarsi con più irrequietezza che mai nell'abisso di una civetteria senza cuore, non sentii più pietà di lei. Avvenga quel che vuole, pensai, se lo merita. Sir Thomas non andrà poi troppo male per lei e prima sarà in condizione di non ingannare e di recar danno agli altri, meglio sarà. Le nozze furono fissate per il 1° giugno. Fra queste e il famoso ballo c'erano poco più di 6 settimane, ma con l'abilità raffinata e la decisa volontà di Rosalia, possibilità ce n'era, anche entro quel tempo, specialmente perché Sir Thomas passò la maggior parte di questo periodo a Londra, dove era andato, dicevano, a regolare gli affari col suo avvocato e a fare altri preparativi per le prossime nozze. Egli cercava di supplire la sua assenza con un fuoco continuo di bigliettini teneri, ma questi non attiravano l'attenzione dei vicini, né aprivano loro gli occhi, come sarebbe avvenuto con delle visite di persona, e il riserbo orgoglioso e acido della vecchia Lady Ashby le vietava di propagare la novella, mentre la cattiva salute le impediva di venire a far visita alla sua futura nuora. Così che, nell'insieme, questa faccenda fu tenuta più segreta di quel che avviene di solito in cose di questo genere. Rosalia qualche volta mi mostrava le lettere del suo innamorato per convincermi quale marito gentile e devoto sarebbe stato. Mi mostrava anche le lettere di un'altra persona, lo sfortunato signor Green, che non aveva il coraggio o, come lei diceva, la faccia tosta di perorare la sua causa di persona, ma che non sarebbe stato smontato da un semplice rifiuto, e così continuava una lettera dopo l'altra. Non si sarebbe comportato in tal modo se avesse potuto vedere le smorfie del suo bell'idolo dinanzi agli appelli commoventi che gli faceva ai suoi sentimenti e avesse potuto sentire le risa derisorie e gli epiteti ingiuriosi che gli scagliava per la sua perseveranza. «Oh, perché non gli dice subito che è fidanzata?» le chiesi. «Oh, non ho bisogno che lo sappia», rispose. «Se lo sapesse, le sue sorelle e tutti lo saprebbero e allora sarebbe finito il mio... E poi, se glielo dicessi, crederebbe che il mio fidanzato sia il solo ostacolo e che l'accetterei se fossi libera. E non posso sopportare che un uomo pensi questo, e lui meno di tutti gli altri. D'altronde, me ne infischio delle sue lettere», aggiunse con disprezzo. «Mi scriva pure tutte le lettere che vuole e guardi come un vitellone finché gli pare quando li incontro. Questo mi diverte soltanto». Frattanto, il giovane Meltham era abbastanza assiduo nelle sue visite a casa e nelle vicinanze, e giudicando dagli improperi e dai rimbrotti di Matilde, sua sorella gli dedicava più attenzione di quel che richiedesse la correttezza. In altre parole, ella si abbandonava alla vivace civetteria compatibile con la presenza dei suoi genitori. Fece dei tentativi per trascinare ancora una volta ai suoi piedi il signor Hatfield, ma siccome furono senza successo, ricambiò la sua altezzosa indifferenza con un disprezzo ancora più marcato e parlò di lui con lo stesso disdegno e odio con cui aveva parlato prima del suo coadiutore. Ma in mezzo a tutto questo non perse mai di vista un momento il signor Weston. Colse ogni opportunità di incontrarlo, cercò ogni arte per allettarlo e gli corse dietro con tanta perseveranza come se amasse realmente lui e nessun altro. E la felicità della sua vita dipendesse dal vedersi ricambiata con un segno di affezione. Ah, questa condotta era assolutamente al di sopra della mia comprensione. Se l'avessi letta in un romanzo l'avrei trovata innaturale. Se l'avessi sentita raccontare da altri, l'avrei presa per un abbaglio o un'esagerazione, ma quando ne fui spettatrice e ne dovetti anche soffrire, non mi restò che concludere che l'eccessiva vanità, come un'ubriachezza, indurisce il cuore, asserve tutte le facoltà e rovina i sentimenti. E che i cani non sono le sole creature che si avventano alla gola, sbranano quel che non possono divorare e sottraggono il più piccolo pezzetto al fratello affamato. Ora era diventata straordinariamente di cuore con i poveri abitanti del villaggio. Fra essi la cerchia delle sue conoscenze si era molto più estesa, le sue visite alle loro umili abitazioni erano assai più frequenti, donde acquistò la nomea di una signorina condiscendente e molto caritatevole. E certo, queste loro lodi erano ripetute al signor Weston, che ella aveva, credo, l'opportunità di incontrare ogni giorno nella casa dell'uno o dell'altro, o nell'andare o nel tornare. Poi in questo modo poteva spesso sapere dalle loro chiacchiere in quali posti egli doveva probabilmente andare a questo o a quell'ora, sia per battezzare un bambino, sia per visitare vecchi ammalati, afflitti o morenti, e con la massima abilità ella disponeva i suoi piani in conseguenza. In queste escursioni andava qualche volta con la sorella, che era riuscita con qualche mezzo a convincere e a corrompere, qualche volta da sola, mai ora con me. Così che fui privata del piacere di vedere il signor Weston e di udire la sua voce anche in conversazione con un altro, cosa che mi sarebbe stata di immenso piacere, sebbene misto a pena e gelosia. Non potevo neppure vederlo in chiesa perché la signorina Murray, sotto un pretesto qualsiasi, si impossessò nel banco di famiglia dell'angolo che era stato sempre il mio, e a meno che avessi avuto la pretesa di mettermi fra il signore e la signora Murray, dovetti per forza sedere con la schiena al pulpito. Ora non andavo neppure più a casa a piedi con le mie allieve. Dissero che la mamma pensava che non pareva bello vedere tre persone della famiglia andare a piedi e solamente due andare in carrozza, e poiché nella bella stagione preferivano di gran lunga camminare, a me toccò l'onore di andare coi più vecchi. E poi, dissero, lei non può camminare in fretta come facciamo noi, lei rimane sempre indietro, lo sa. Sapevo che questi erano pretesti belli e buoni. Ma non feci obiezioni e non protestai, ben conoscendo le ragioni che li dettavano. E durante quelle memorabili 6 settimane non ritornai mai in chiesa nel pomeriggio. Se avevo un raffreddore o qualche altra lieve indisposizione, subito ne approfittavano per farmi rimanere a casa, e spesso mi dicevano che neppure esse sarebbero tornate quel giorno. E poi confessavano di aver cambiato idea e uscivano senza dirmelo, disponendo la loro partenza in modo che non scoprissi, prima che fosse troppo tardi, il loro cambiamento di programma. Un giorno, al loro ritorno, mi fecero un animato racconto della conversazione che per strada avevano avuto col signor Weston. «E ha chiesto se lei era ammalata, signorina Gray», disse Matilde, «ma noi gli abbiamo detto che stava benissimo, ma che non aveva voglia di venire in chiesa, così penserà che si è volta al male». Tutte le opportunità di incontrarlo durante la settimana mi erano opprobrabilmente evitate. Così, per paura che andassi a vedere la povera Nancy Brown o qualche altra persona, la signorina Rosalia faceva in modo di darmi delle occupazioni che mi riempissero tutte le ore libere. C'era sempre da terminare qualche disegno, da copiare qualche pezzo di musica o da fare qualche lavoro di cucito, così che non mi era permesso che una breve passeggiata per i fondi fossero o no occupate lei e sua sorella. Una mattina che avevano cercato e incontrato il signor Weston, ritornarono tutte allegre a farmi il racconto della loro intervista. «Ha chiesto ancora di lei», disse Matilde, nonostante l'intimazione tacita e perentoria di sua sorella di tener chiusa la bocca. «Si è meravigliato che non venga più con noi e ha creduto che abbia una salute delicata per uscire così raramente». «Non ha detto così, Matilde! Che sciocchezze vai contando!» «Oh, Rosalia, non sono bugie, l'ha detto, lo sai, e tu hai detto...» «Che diamine, Rosalia, non voglio essere pizzicata così!» «E signorina Gray, Rosalia gli ha detto che lei stava benissimo, ma che era sempre così sprofondata nei suoi libri che non trovava piacere in nessun'altra cosa!» «Che idea deve farsi di me?» pensai. «E la vecchia Nancy chiese, non chiede mai di me?» «Oh, sì, e le abbiamo detto che lei è così appassionata alla lettura e al disegno che non si occupa di altro!» «Non è vero, però. Se le avessero detto che ero tanto occupata che non potevo andare a trovarla, sarebbe stato più vicino alla verità.» «Credo di no», rispose la signorina Rosalia, indispettita improvvisamente. «Sono sicura che ha moltissimo tempo per sé ora, poiché ha così poco da insegnare.» Non era il caso di mettersi a contrastare delle persone di fede tanto cattiva e irragionevoli, e quindi rimasi zitta. Ero abituata ormai a tacere quando mi accadeva di dover udire cose spiacevoli, e avevo anche preso l'abitudine di assumere un viso sorridente e placido quando sentivo il cuore gonfio di amarezza. Soltanto quelli che hanno provato qualcosa di simile possono immaginare i miei sentimenti, mentre stavo ad ascoltare, fingendo una sorridente indifferenza, il racconto che tutte giulive mi facevano di quegli incontri e di quelle conversazioni col signor Weston, e mentre sentivo dire di lui delle cose che, conoscendo il carattere dell'uomo, sapevo che dovevano essere esagerazioni o falsità, cose indegne di lui e lusinghiere per loro, specialmente per la signorina Rosalia. Ardevo dal desiderio di contraddirle, o almeno di esprimere i miei dubbi, ma non osavo, per timore che, dimostrando la mia poca fiducia, scoprissi anche il mio interessamento. Ascoltavo anche altre cose che sentivo o temevo fossero purtroppo vere, ma dovevo celare la mia inquietudine sul suo conto e la mia indignazione contro di loro sotto un'aria non curante. Altre volte, sentendo delle semplici allusioni di cose dette o fatte, avrei desiderato saper di più, ma non osavo chiedere. Così il tempo passava lentamente, e non potevo neppure consolarmi con il dire «Ella si sposerà presto e potrò avere qualche speranza». Subito dopo il suo matrimonio sarebbero arrivate le vacanze, e quando fossi ritornata da casa, molto probabilmente il signor Weston sarebbe partito, perché si diceva che lui e il rettore non andavano d'accordo, per colpa del rettore naturalmente, e che il signor Weston si sarebbe trasferito in un altro posto. No. Oltre alla mia speranza nella provvidenza, la mia unica consolazione era pensare che, benché egli non lo sapesse, ero più degna del suo amore che Rosalia Murray, per quanto bella e affascinante, perché potevo apprezzare la sua superiorità e lei no. Io ero pronta a dare la mia vita per renderlo felice. Lei avrebbe distrutto la sua felicità per la soddisfazione perversa della sua vanità. Oh, se avesse potuto conoscere la differenza fra noi due, esclamavo con ardore. Ma no, non avrei voluto che vedesse il mio cuore. Se tuttavia avesse potuto soltanto conoscere l'egoismo, l'indegnità e la frivolezza di lei, sarebbe stato salvo e io sarei stata quasi, quasi felice, anche se non l'avessi dovuto più rivedere. Temo che ormai la lettrice sia ben stanca della follia e della debolezza che le ho posto così apertamente davanti agli occhi, ma allora non le lasciai trasparire e non mi sarei confidata neppure a mia madre e a mia sorella. Fui capace di dissimulare in maniera scaltra e risoluta, almeno per quella volta. Le mie preghiere, le mie lacrime, i miei voti e i miei timori ebbero come testimoni solo me e la provvidenza. Quando siamo tormentati da pene e afflizioni, o oppressi per lungo tempo da un potente sentimento che dobbiamo nascondere, per il quale non possiamo ottenere né cercare alcuna simpatia fra i nostri simili, e che d'altronde non possiamo né vogliamo completamente soffocare, spesso siamo portate a cercare conforto nella poesia, e sovente lo troviamo, sia nelle effusioni di altri che possono avvicinarsi al nostro caso, sia nei nostri tentativi di esprimere pensieri e sentimenti in forma meno musicale, forse, ma più appropriata, e quindi più patetica e più adatta ad alleggerire il cuore dal fardello che lo opprime. Prima di allora, sia a Wellwood House che lì, avevo cercato due o tre volte sollievo in questa segreta fonte di conforto, quando sentivo la nostalgia di casa, e ora mi ci abbandonai nuovamente, con più grande slancio, perché mi sembrava di averne più che mai bisogno. Conservo ancora queste reliquie della sofferenza e dell'esperienza passata come colonna eretta per il viaggiatore o la viaggiatrice attraverso la valle della vita per segnare avvenimenti particolari. I passi ormai sono cancellati, la faccia del paese sarà forse mutata, ma la colonna ancora c'è a ricordarmi quando fu innalzata. Oh, rapita alla speranza che lo spirito mio bramava, né udrò più la dolce voce che il mio cuore dilettava. Non mi è dato di vedere quel per me sì dolce viso, e mi han tolto l'amor tuo, m'han levato il tuo sorriso. Sì, sì, prenditi pure tutto. Un tesor mi resta, un cuore che si strugge nel pensarti, nel sentir del tuo il valore. Sì, almeno esse non potevano privarmi di questo, potevo pensarlo giorno e notte e potevo sentire che era degno di essere amato. Nessuna lo conosceva come me, nessuna come me poteva stimarlo, nessuna poteva amarlo come l'avrei amato io, se avessi potuto. Ma lì era il male. Che scopo avevo di pensare tanto a una persona che non pensava mai a me? Non era follia, non era male. Anche se provavo tanto piacere nel pensare a lui e tenevo questi pensieri per me senza turbare nessuno, che male c'era? E questi ragionamenti mi impedivano di fare lo sforzo necessario per scuotere i miei ceppi. Sì, questi pensieri mi davano piacere, ma un piacere pieno di amarezza e inquietudine, troppo stretto parente del dolore e che mi recava più danno di quanto non credessi. Era una concessione che non si sarebbe certamente permessa a una persona più saggia e provata. Pure, com'era terribile distogliere gli occhi dalla contemplazione di quell'oggetto attraente e posarli sul paesaggio cupo, grigio e desolato che mi circondava, sul sentiero solitario e malinconico che mi aspettava. Era ben triste essere così infelice e disperata. Non mi restava che eleggere il divino come mio amico. Durante quel periodo di inquietudine avevo altre due ragioni di afflizione. La prima sembrava una sciocchezza, ma mi costò molte lacrime. Il piccolo Snap, il mio compagno senza parole, turbolento ma vivace ed espansivo, l'unico essere che mi fosse affezionato, mi fu tolto e ceduto all'acchiapparatti del villaggio. Un uomo noto per i maltrattamenti a cui sottoponeva i suoi schiavi di razza canina. L'altra ragione era molto seria. Le lettere che mi giungevano da casa mi informavano che la salute di mio padre era peggiorata. Non vi era espressa nessuna paura reale, ma mi sentivo timida e scoraggiata e non potevo fare a meno di temere che ci giungesse da quella parte qualche terribile calamità. Mi pareva di scorgere nuvoloni neri raccogliersi, addensarsi sulle colline natie e di sentire il brontolio rabbioso di una tempesta pronta a scoppiare e desolare il nostro focolare.